Io so che ti odierò, che questo istante finirà, perché tu sei il mio bene, perché io so il tuo bene, perché io so mentire bene. E quando guarderai il buio spegnersi, però sai respirare, sai anche camminare, e poi io so mentire bene. E l'alba che vedi ci ucciderà, o è un brivido che muore da sé. Ed ecco la verità, io credo non ti piacerà, perché tu sei il mio bene, perché io so il tuo bene, perché io so mentire bene. E il nulla riderà di quanto sono stupido, però so respirare, so anche camminare, e poi io so mentire bene. Ma l'alba che vedi ci ucciderà, è un brivido che muore da sé. Ma l'alba la vedi, ha ucciso ormai un brivido che muore da sé. Perché tu sei il mio bene, perché io so il tuo bene, perché io so mentire bene. Sei il mio bene, perché io so il tuo bene, perché io so mentire bene.